chiama. Bene, buonasera a tutti, benvenuti, grazie per presenziare a questo appuntamento. Si tratta del penultimo della parte seminariale teorica di questo percorso sulla genealogia del soggetto Michel Foucault. Lo terrò io. La volta precedente avevamo visto l'ultima produzione foucaultiana, cioè stavamo andando verso la chiusura del discorso per quel che concerne la parte di produzione teorica da parte di Michel Foucault. Avevamo visto prima il dispositivo, poi la cura di sé, avevamo letto soprattutto estratti dal corso del 1981-1982 sull'ermeneutica del soggetto, e avevamo appunto iniziato a sviscerare tutto quello che viene ripreso, teorizzato, ampliato da Foucault sotto il concetto di cura di sé. Oggi continueremo su questa linea e andremo a vedere quello che Foucault apre all'inizio degli anni Ottanta, non tanto come si va a chiudere, ma quanto come si va di nuovo a rielaborare, perché in effetti non esiste una chiusura vera e propria del discorso foucaultiano, anzi oggi introdurremo dei temi fondamentali che per la morte dell'autore improvvisa nel 1984 non sarà nemmeno possibile esaurire, ma che rappresentano tuttora oggi, a 28 anni di distanza, dei momenti fondamentali di studio, di analisi. Insomma, cercheremo di completare la cassetta degli attrezzi di cui parlavamo precedentemente. Per iniziare però con oggi vorrei partire dalla lettura di qualcosa che Foucault scriveva già nel 1974, anzi diceva, perché leggerò degli estratti dal corso sul potere psichiatrico del 1974, reperibili in Foucault oggi a pagina 16 e pagina 17. La volta scorsa avevamo lasciato sullo sfondo completamente due concetti, direi, due parole, verità e libertà. Obiettivo di oggi è entrare più nello specifico degli ultimi due anni di Foucault per capire le linee forti di ricerca che Foucault aveva innestato su queste due parole. Però partiamo dal 1974. Alcuni hanno l'abitudine di ricostruire la storia della verità in termini di oblio dell'essere. Chiaramente il riferimento a Martin Heidegger è chiaro, ma facendo valere l'oblio come categoria fondamentale della storia della verità. In realtà non fanno altro che ricorrere fin da subito ai privilegi della conoscenza, dato che solo sulla base di una relazione già stabilita, posta una volta per tutte con la conoscenza, che qualcosa come l'oblio potrà prodursi. Cioè già nel 74 Foucault era andato a delineare uno sviluppo del concetto della storia della verità nella cultura occidentale che, come avevamo visto la volta scorsa, aveva portato alla creazione di un determinato tipo di soggetto conoscitivo che era quello la cui tradizione si era innestata con il conosci te stesso greco, di fronte al quale aveva posto invece la cura di sé. In un passaggio sempre dello stesso corso: nella storia occidentale della verità ci sono dunque due serie. Da un lato c'è la serie della verità scoperta, costante, costituita, dimostrata, ma dall'altro c'è una serie del tutto diversa, quella di una verità che non appartiene all'ordine di ciò che è, ma piuttosto all'ordine di ciò che accade. E dunque una verità che non è data nella forma della scoperta, bensì nella forma dell'evento. Una verità che non è constatata, ma che è suscitata, braccata. Produzione piuttosto che apofantica. Produzione di verità piuttosto che dimostrazione di verità. Si tratta infatti di una verità che non si dà attraverso la mediazione di strumenti, ma che viene provocata per mezzo di rituali, che viene catturata attraverso degli stratagemmi, che viene colta a seconda delle occasioni. E qua Foucault delinea già la sua linea sulla verità che caratterizzerà gli ultimi due anni, l'ultimo periodo della sua produzione, cioè la verità come qualcosa che si produce, la verità come qualcosa che appartiene in un certo senso alla vita, la verità che non è qualcosa che si pone come obiettivo conoscitivo ripeto, conoscitivo da raggiungere. E quale parole un po' retoriche, un po' metaforiche che usa, però sono, viene catturata attraverso stratagemmi, che viene colta a seconda delle occasioni, che viene provocata per mezzo di rituali. Quindi una verità situata. Oggi vedremo proprio che cosa vuol dire questa situazione della verità. Per una verità di questo genere, pertanto, il problema fondamentale non sarà mai quello del metodo. Il metodo, parola che ormai sentiamo da tanto tempo, dal primissimo appuntamento di questo seminario, bensì quello di una strategia. E la parola strategia ricorreva quando abbiamo parlato di potere, quando abbiamo parlato di dispositivi. Tra questa verità evento e chi ne è preda, chi l'afferra o chi ne è colpito, il rapporto non è analogo a quello che lega l'oggetto al soggetto. Non è dunque un rapporto di conoscenza, è piuttosto un rapporto contrassegnato dallo scontro, dall'urto. Un rapporto simile a quello tra il fulmine e il lampo. Assomiglia a ciò che avviene nella caccia. In ogni caso si tratta di un rapporto rischioso, reversibile, bellicoso. Il rischio sarà poi una delle parole fondamentali con cui andremo a chiudere oggi. Insomma, si tratta di un rapporto in cui c'è dominazione e c'è vittoria, e dunque di un rapporto non di conoscenza, ma di potere. Quindi già nel 74 si individua come linea fondamentale, che oggi cercheremo di andare ad analizzare, quella della verità come produzione di un qualcosa, che oggi cercheremo di delineare, e non come obiettivo conoscitivo. Qui di nuovo ritroviamo, non in maniera dialettica chiaramente, cioè non c'è niente di dialettico nel pensiero foucaultiano, ma in maniera direi paradigmatica, cioè di fronte a un determinato paradigma che domina la cultura occidentale, con degli albori in Grecia, ma in maniera forte dal XVII secolo in poi, di nuovo qui si va a porre un paradigma differente. E già nel 74 si era andato a porre questo elemento. Sempre come quasi direi introduzione al discorso di oggi, vorrei sempre leggere dall'introduzione di questo testo un altro passaggio che mi sembra particolarmente significativo. Il pensiero del di fuori, in quanto esteriorità dispiegata, scopre per Deleuze il dedans come opération du dehors. Qua stiamo parlando di altri due termini che appartengono a una filosofia che non è esattamente quella foucaultiana, ma che Foucault assolutamente comprende e rielabora, tra l'altro in un suo scritto piuttosto famoso, Il pensiero del fuori. Potremmo dire, con un linguaggio differente, scopre la mondanità di ogni dimensione tradizionalmente considerata come interiore. Cioè il pensiero del fuori porta alla luce il fatto che la dimensione interiore, il, non vorrei fare un volo pendarico, ma il noli foraste ire di Sant'Agostino, il non uscire da te stesso, il fatto che ci sia un'interiorità come pozzo in cui andare a ritrovare i significati dell'esistenza, sia mondana. Sia mondana nel senso che appartiene al fuori, che appartiene alla vita, si appartiene al fatto che noi viviamo in un determinato mondo. Quindi un'interiorità che si costruisce proprio come fuori. Scopre, in altri termini, la sua esteriorità. Cioè è proprio come ribaltare un guanto e vedere che quello che consideravamo l'interno di questo guanto è in realtà il suo esterno. La sua appartenenza al mondo, la sua indipendenza dal soggetto che la veicola. Qua viviamo uno dei punti fondamentali di oggi, è il processo di svuotamento del soggetto, di desoggettivazione di cui si parlava con leggendo Rovatti alla fine dell'appuntamento precedente. Che cosa poi vuol dire questo fuori che diventa dentro, che noi sentiamo come dentro? Dallo stesso soggetto che la considera erroneamente come sua creatura esclusiva, singolare, irripetibile. Non vorrei dire, usando un vocabolario che è improprio, che arriviamo quasi a un mondo senza nomi, a un mondo senza persone nominate. Però qua stiamo arrivando a un discorso riguardo alla soggettivazione in cui il mondo ha un ruolo fondamentale. Vedremo oggi come è articolato tutto questo. saltando un piccolo passaggio, la novità dei greci, per l'ultimo Foucault, consiste proprio in questo privilegio accordato alla costituzione di sé. Ma come? In che senso costituzione di sé? Al rapporto a sé che si realizza grazie a un duplice sganciamento. Gli esercizi che rendono possibile il governo di se stessi si distaccano al tempo stesso dal potere come rapporto di forza e dal sapere come forma stratificata, come codice della virtù. Questo distacco proietta la costruzione di se stessi in una esteriorità irriducibile. Vorrei che da questa piccola introduzione rimanesse questo, l'esteriorità irriducibile, in un di fuori indipendente dalle cifre psicologiche dell'interiorità e dai percorsi dell'intenzionalità messi a fuoco dalla fenomenologia. Quindi, di nuovo, due paradigmi che l'ultimo Foucault nega, rescinde, taglia completamente. Il paradigma, da un lato, di analisi psicologica, come avevamo citato la volta scorsa, sto andando a memoria, forse sbaglio, l'arte di vivere è l'eliminazione della psicologia, da un lato, e dall'altro lato il paradigma fenomenologico, caratterizzato su un massimo dell'idealismo, un massimo del realismo, che si fonderebbero nell'intenzionalità e che pongono la coscienza come dato costitutivo. Come sintetizza Deleuze, il rapporto a sé prende l'indipendenza. E quello che vorrei cercare di focalizzare oggi è proprio come questo rapporto a sé prenda l'indipendenza nel senso di un'esteriorità irriducibile. Una citazione con cui chiudere questa sorta di introduzione, sempre da questo libro, dal bellissimo saggio finale di Gros: la verità non è qualcosa che si discute, è qualcosa che si vive. Sarà questo il punto in cui probabilmente arriva Michel Foucault prima di morire. A questo punto vorrei introdurre un'intervista di cui avevamo accennato solo il titolo la volta passata, intervista pubblicata nel 1984, quindi pochi mesi prima della morte di Foucault, intervista peraltro pluricitata in qualsiasi saggio di Foucault, che costituisce, non dico la summa del suo pensiero, perché farne una summa non ha assolutamente senso, ma che traccia uno stato di ricerca, cioè che ci dice per tantissimi punti quello che era il momento, il punto a cui era arrivato Michel Foucault quell'anno, l'anno della sua morte, prima di chiudere i discorsi che aveva intrapreso. Vedremo che in questa intervista ci sono alcune strade nuove, che sono le strade che sono rimaste inesplorate, vedremo che si chiudono definitivamente alcuni discorsi. Per dare un ordine alle cose che vedremo oggi, poi ritornerò al corso dell'82-83 sul governo di sé degli altri, per concludere con alcuni spunti tratti dal corso del 1984 sul coraggio della verità e dedicato a Diogene, e vedremo come in Foucault tra i corsi dall'81 all'83, cioè l'ermeneutica del soggetto e il governo di sé degli altri, e il corso dell'84, quello sul coraggio della verità, ci sia l'innesto di una nuova modalità, e troveremo che la paresia sarà un punto fondamentale a cui arrivare. E poi tenterò di delineare una sorta di sintesi provvisoria di quello che sono stati gli argomenti di queste due lezioni, in 6 punti che cercheranno un pochino di definire lo stato della situazione attuale. Vorrei seguire proprio alcuni passaggi dell'intervista, perché costituiscono una delineazione piuttosto chiara di quello che è stato. In seguito a una domanda su che cosa fosse l'oggetto sulla sua riflessione, Foucault risponde: questo è stato sempre il mio problema, anche se ho mutato il quadro della mia riflessione in un modo un po' differente. Ho cercato di capire come il soggetto umano entrasse nei giochi di verità, ne entrasse nella verità, sia nel caso dei giochi di verità che presentano la forma di scienza o che si riferiscono a un modello scientifico, sia nel caso di giochi di verità che si possono riscontrare nelle istituzioni o nelle pratiche di controllo. I giochi di verità sono una delle parole chiave introdotte dal Foucault dell'ultimo periodo. Che cosa sono questi giochi di verità? In effetti sono probabilmente allo stato attuale la linea di tendenza del suo pensiero meno articolata, perché semplicemente non ebbe modo di portarla avanti massicciamente. Però qua, in queste quattro righe, ci dice che cosa stava intendendo alla fine per giochi di verità. Gioco di verità è qualcosa che si può presentare in forma di scienza o che si riferisce a un modello scientifico. Cioè noi troviamo i giochi di verità sia nei paradigmi di cui abbiamo parlato fino ad ora, nei paradigmi conoscitivi, ma anche nel caso di giochi di verità che si possono riscontrare nelle istituzioni o nelle pratiche di controllo. Che cosa vuol dire qua Foucault quando parla di giochi di verità che si possono riscontrare nelle istituzioni o nelle pratiche di controllo? Non dimentichiamo quello che diceva prima sulla verità, cioè la verità non puramente, anzi non come atto conoscitivo, ma verità come qualcosa che appartiene a un processo produttivo. In questo caso cosa sono i giochi? E come si devono intendere? Dove si trovano, dice, nelle istituzioni e nelle pratiche di controllo? Cosa vuol dire trovare la verità nelle istituzioni? Vuol dire che ci sono tutta una serie di concatenamenti, di processi di produzione, di macchine, avrebbe detto Deleuze, che legittimano il fatto che si produca qualcosa che chiamiamo pure verità in certi contesti. Ad esempio nelle istituzioni. Che cosa vuol dire che le istituzioni producono verità? Poi vedremo come si associa al soggetto. Però le istituzioni producono verità nel senso che producono un qualcosa che è definibile, utilizzando un vocabolario un po' spurio e che probabilmente non si adatta benissimo, però che stabiliscono una regola, una norma, un ordine, un qualcosa a cui bisogna attenersi. Questa verità non è una verità che appartiene strettamente, che non è una conoscenza, non è qualcosa che bisogna rendere, non è qualcosa che bisogna possedere come atto di conoscenza, ma è una verità che ci dà qualcosa in termini di situazioni, in termini di quello che noi viviamo. Per esempio, questa situazione che noi stiamo vivendo adesso è qualificabile sotto i termini di verità da tanti punti di vista. C'è una qualifica di verità rispetto a me stesso che parlo, per cui io assumo una determinata identità vera rispetto a me stesso in questo momento, per il ruolo che sto occupando in questo momento. C'è una vostra verità di uditori in questo momento e c'è una situazione, potremmo dire, data dal dispositivo che funziona in questo momento, per cui si presuppone che quello che io stia dicendo in questo momento possa essere riassunto in termini di produzione di verità. Ok? Qual è lo scarto grosso rispetto a prima, rispetto all'altro processo di verità che Foucault vuole ignorare? Che è questa situazione strutturata su meccanismi di potere che genera un discorso vero, declinabile in altra maniera all'interno della situazione accademia. È verità qualsiasi tipo di statuto che l'accademia fa a definire rispetto allo studente, rispetto al docente, rispetto alla trasmissione di conoscenza, per cui si aggancia la verità di quello che succede a tutta una serie di determinate procedure, a una serie di determinati processi, ma questi processi esistono solamente nel momento in cui vi sono dei dispositivi che li supportano in una determinata maniera. Okay? E la verità è in questo senso strategica. La verità è qualcosa che si rivolge ai comportamenti, che si rivolge alla vita e inevitabilmente passa da tutta una serie di strutture che qua definisce istruzioni, come istituzioni e che la producono, più che legittimata. Okay? Poi come dice successivamente, nella domanda, i giochi di verità non riguardano più una pratica coercitiva, ma una pratica di autoformazione del soggetto. E la risposta di Foucault qual è? Proprio così. È quella che potrebbe essere definita una pratica ascetica, dando all'ascetismo un senso molto generale, cioè non il senso di una morale della rinuncia, ma quello di un esercizio di sé su di sé, attraverso cui si cerca di elaborare se stessi, di trasformarsi e di accedere a un certo modo d'essere. Quindi, in un processo della vita che si trasforma, che cambia, in un processo di divenire della vita, noi ci autoformiamo, costruiamo il nostro sé nel momento in cui, come soggetti soggettivantisi, entriamo, come dice correttamente l'interpretatore, in un momento di autoformazione del soggetto. Cioè, noi entrando all'interno del circuito dei dispositivi, entriamo all'interno di giochi di verità che legittimano noi stessi e formano noi stessi in un determinato senso. Per cui io sono un artista vero se appartengo, se sto vivendo un sistema di produzione della verità che mi può qualificare in quel momento come artista vero. Io sono docente vero se appartengo a un sistema di formazione della verità che mi qualifica come docente vero. Quello che però avevamo visto le volte scorse è che tutti questi sistemi di formazione che sono soprattutto di autoformazione, che ci danno un determinato tipo di consapevolezza da noi stessi, sono sistemi totalmente esterni al soggetto che, come dicevamo la volta scorsa, lo modellano, lo conformano, lo inclinano e così via. Quindi il passaggio verso cui stiamo arrivando è che noi autoformiamo noi stessi e quindi ne consegue una determinata percezione. Attenzione, qua dice, una pratica scettica non è una percezione conoscitiva, io conosco me stesso in una determinata maniera, ma io vivo me stesso in una determinata maniera, questa vita che ho di me stesso, questa mia autoformazione che riguarda tutto me stesso è strettamente agganciato ai giochi di verità che io trovo nel momento in cui incontro tutta una serie di regimi di dispositivi. Dopodiché, in seguito a un imbeccato un po' provocatorio dell'intervistatore, si va in una direzione che è quella della liberazione. E l'intervistatore dice, ma un lavoro su se stessi, che può essere compreso come una liberazione, come un processo di liberazione, cioè quando io entro in questo processo di autoformazione, in cui mi riconosco come vero, mi sto liberando? E Foucault risponde, su questo punto sarei un po' più prudente. Sono sempre stato un po' diffidente nei confronti del tema generale della liberazione, nella misura in cui, se non lo si tratta con qualche precauzione all'interno di certi limiti, rischia di riportare all'idea che esiste una natura o un fondo umano che, in seguito a alcuni processi storici, economici e sociali, si è trovato mascherato, alienato, imprigionato in alcuni meccanismi, in certi meccanismi di repressione. E qua torniamo a uno dei punti fondamentali che appunto la filosofia di Foucault col martello ha distrutto, cioè il fatto che in assenza di questo fondo umano noi non possiamo parlare di processi di liberazione. Quali processi di liberazione? Teniamo pure l'ottica marxista. Okay? Intendiamo pure l'ottica cristiana con la teologia della salvezza, quello che vogliamo, ma non è qui il punto. Libertà, come dirà poi, non è strettamente liberazione. La liberazione presuppone il fatto di credere in una natura umana per cui, spogliandoci da tutto quello che ha coperto, ha inquinato questa natura umana, noi veramente arriviamo a questo arricchimento, la possibilità, questa piena potenzialità. Non è così. In assenza di questa natura umana noi dobbiamo andare a intendere i processi di libertà in maniera differente rispetto a quello che si intende in altri contesti. La pratica di liberazione non basta a definire le pratiche di libertà che saranno successivamente necessarie affinché quel popolo, quella società, quegli individui possano definire per se stessi le forme ammissibili e accettabili della loro esistenza o della società politica. Cosa sta dicendo qui Foucault? Certo, esistono dei popoli che si sono liberati, ma il mio discorso in questo momento non sta andando strettamente in quella direzione, anzi sta andando in una direzione diversa. E se mi si consente, questo discorso libertà-liberazione è una chiave di lettura efficacissima su tutto quello che a livello massmediatico si sta proponendo come liberazione nel contesto contemporaneo, liberazione dalle dittature nordafricane, per esempio, e così via. Un processo di libertà non è un processo di liberazione. Come avevamo iniziato la volta precedente, esistono tutta una serie di linee generali di forza, che non sono solamente quelle dello Stato. Queste linee generali di forza vanno a riempire la nostra interiorità, come diremmo oggi, con una serie di angolature, sfaccettature, campi, piani, che è assolutamente articolata in una maniera complessissima. Il fatto di avere tolto una di queste linee di forza, forse la preponderante, per poi pensare di aver liberato il soggetto togliendo questa linea di forza, è assolutamente un'utopia, come se tutte le altre linee di forza generali potessero essere rimosse esclusivamente tramite la rimozione di una di queste. E poi l'intervistatore, passando a un argomento successivo, introduce le parole fondamentali di questo discorso. Lei dice che bisogna praticare la libertà eticamente. E la risposta è sì, perché che cos'è l'etica se non la pratica della libertà, la pratica riflessa della libertà? E poi, questo significa che lei intende la libertà come una realtà già etica in se stessa? La libertà è la condizione ontologica dell'etica, ma l'etica è la forma riflessa che assume la libertà. Cos'è questo legame tra etica e libertà, quindi? Che definizione avevamo dato, se possibile, da un apparato definitorio di etica la volta precedente? Avevo citato un passaggio di Baudet che mi sembrava interessante. L'etica è la costruzione, che inevitabilmente passa attraverso il soggetto, del terreno della vita, cioè è la modalità in cui il soggetto, costruendosi, costruisce il terreno della propria vita. Avevamo visto come uno dei punti fondamentali che questa costruzione etica di sé, a cui la volta scorsa avevamo dato il nome di cura di sé, è un prendersi cura di sé e, prendendosi cura di sé, prendersi cura degli altri. Corretto. In questo senso Baudet, se non mi sbaglio, parlava di terreno della vita. Non è una vita solipsistica, individualistica, non so che altruistico aggiungerci. È una vita in cui, autoformando noi stessi, noi andiamo a preparare il terreno in cui accogliamo gli altri. E qua che cosa sta dicendo? La libertà è la condizione ontologica dell'etica. Ontologica nel senso che per la costituzione di sé e quindi del terreno della nostra vita, inevitabilmente noi dobbiamo possedere qualcosa che chiamiamo libertà. Andremo poi a vedere meglio che cosa è la libertà. E quindi, come dice nel secondo passaggio, l'etica è la forma riflessa che assume la libertà. Cioè, la libertà è la condizione di possibilità di esistenza di un'etica e l'etica è la manifestazione concreta di un qualcosa che noi esercitiamo come libertà. Libertà che non è liberazione. Oggi, pian pianino, passetto passetto, cercheremo di riempire questa possibile definizione di libertà. E poi, appunto, una domanda che è molto semplice: l'etica è quello che si realizza nella ricerca e nella cura di sé? La risposta di Foucault è molto articolata, però vorrei estrapolarne un punto. Nel cristianesimo la salvezza si realizza con la rinuncia a se stessi, cioè all'interno di tutto questo paradigma che Foucault stava impostando e all'interno del fatto che anche la sua produzione, cioè la produzione letteraria che aveva delineato, articolata in quattro testi, si sarebbe dovuta concludere nelle Confessioni della carne, che non ha mai scritto, tutto rimane sparso qua e là, però questo è uno dei punti in cui Foucault è più chiaro nel dire: nel passaggio cristiano si perde nel passaggio attraverso il cristianesimo, si perde totalmente questa dimensione della libertà, perché la conversione cristiana, la conversione paolina di San Paolo verso se stessi, non ha ormai più nulla a che vedere con quella che gli stoici avevano chiamato l'epistrofeis auton, la conversione verso se stessi. La conversione verso se stessi degli stoici non è questa modalità, va in direzione di un prendersi cura di se stessi che il cristianesimo rifiuta. Perché il cristianesimo rifiuta questo? Perché il cristianesimo, come dice qua con una parola precisa, implica la rinuncia a se stessi. Salvarsi è rinunciare a se stessi. Prendersi cura di sé non è niente che sia assimilabile alla rinuncia, non è nemmeno il suo opposto, come stavamo vedendo la volta scorsa, ma sicuramente non è un processo di rinuncia, l'avevamo già detto la volta scorsa, non è una devozione totale verso l'esterno, ma è la costruzione della possibilità dell'ingresso di un esterno fondato a partire da se stessi. E poi, continuando sempre in questa intervista sulla cura di sé, il discorso delle verità e dei logoi, cioè le verità come entrano in questo gioco sulla cura di sé? E di nuovo la risposta di Foucault è molto chiara. Non si può aver cura di sé senza conoscere. La cura di sé è di certo conoscenza di sé, questo è l'atto socratico platonico. Infatti in lunghissimi passaggi dedicati ai dialoghi di Platone, soprattutto ai corsi del Collège de France, Foucault aveva sviscerato tantissimo questo punto, ma è anche conoscenza di alcune regole di condotta o di principi che sono contemporaneamente delle verità delle prescrizioni. Avere cura di sé significa dotarsi di queste verità. È qui che l'etica è legata al gioco delle verità. Come dice dopo, si tratta di fare in modo che questi principi dicano in ogni situazione quasi spontaneamente come bisogna comportarsi. Ecco dove troviamo i giochi di verità. È qui che si incontra una metafora che non proviene dagli stoici ma da Plutarco, la quale dice: è necessario che l'apprendimento dei principi sia costante, di modo che, quando i vostri desideri, i vostri appetiti e i vostri timori si risveglieranno come dei cani che abbaiano, il Logos parlerà loro come la voce del padrone che con un solo grido mette a tacere i cani. Qui c'è l'idea di un Logos che per certi aspetti può funzionare senza che si debba far nulla. Si diventa il Logos o il Logos diventa noi stessi. Quindi inserirsi nei giochi di verità significa produrre, inserirsi in sistemi di produzione della verità per cui noi assimiliamo ad assimilare come regole di condotta tutta una serie di principi, qua appunto utilizzando la terminologia greca si chiama logoi, che diventano le regole di condotta all'interno di questi sistemi di produzione della verità e che quindi che noi assimiliamo dall'esterno. La citazione di Plutarco dice: quando i vostri desideri, i vostri appetiti e i vostri timori si risveglieranno, cioè il sistema dei logoi, qua chiaramente è un esempio, è quello che permette di articolare come regola, come momento conoscitivo che diventa momento pratico, tutta una serie di informazioni, direi, che ci permettono di sedare questo qualcosa che urla dall'interno. Detto in altre parole, è una modalità di assoggettamento al regime dei dispositivi. Assoggettamento è una parola che fino ad ora ho quasi del tutto ignorato, che poi comunque ritroveremo. Assoggettamento è uno dei termini fondamentali di Foucault dalla scoperta dei meccanismi, dall'analisi dei meccanismi di potere in poi. Soggettivarsi è anche assoggettarsi. Cosa vuol significa assoggettarsi? Soggetto ha la stessa radice perfettamente di suddito. Soggettivarsi, cioè prestarsi al regime dei dispositivi di cui parlavamo la volta scorsa, è porsi in una situazione di sudditi rispetto a questo regime dei dispositivi. non è una condizione obbligatoria, non è una condizione naturale, è la descrizione di una determinata modalità di vita. Oggi vedremo che di fronte a questa modalità di vita ce ne possono essere altre, e anche il momento della cura di sé costituiva l'ingresso verso queste altre modalità di vita. E poi tornando all'ethos. L'ethos nei greci era il modo di essere e il modo di comportarsi. Era un modo di essere del soggetto, un certo modo di fare, visibile per gli altri. L'ethos non è assolutamente niente che riguarda l'individuo chiuso nella sua stanzetta. L'ethos di qualcuno si deduce dal suo modo di vestirsi, dal suo modo di fare, da come cammina, dalla calma con cui reagisce agli avvenimenti, eccetera. Per loro, e qui sta parlando dei greci, è questa la forma concreta della libertà. Vedremo oggi, questo il Foucault è intervista dell'84, vedremo però oggi che il Foucault dell'ultimissimo periodo va oltre questi greci, va oltre questa concezione dei greci. Ripeto, per loro è questa la forma concreta della libertà. È così che problematizzavano la loro libertà. L'uomo che ha un bel ethos, che può essere ammirato e portato esempio, pratica la libertà in un certo modo. Non credo che ci sia bisogno di una conversione, perché la libertà si è riflessa come ethos. Essa è immediatamente problematizzata come ethos. Ma affinché questa pratica della libertà prenda forma in un ethos, buono, bello, onorevole, stimabile, memorabile e in grado di servire da esempio, è necessario tutto un lavoro di sé su di sé. E tutto quello che avevamo messo la volta scorsa all'interno della scatola delle pratiche di sé e delle tecniche di sé, cioè tutto il lavoro che noi dobbiamo fare su noi stessi per conquistare in maniera consapevole e fondata questo tipo di ethos e questa maniera di vivere la nostra libertà. E continuando. In questo senso la cura di sé è anche sempre etica, è etica in se stessa. Di nuovo un'altra domanda. E qua precisiamo qualcosa che penso ormai sia chiaro. Per i greci non è etica perché è cura degli altri. La cura di sé è etica in se stessa, ma implica dei rapporti complessi con gli altri nella misura in cui questo ethos della libertà è anche un modo di aver cura degli altri. Questo punto greco vedremo fra poco che verrà sorpassato. Per questo motivo, per un uomo libero che si comporta come si deve, è importante saper governare la moglie, i figli, la casa. L'arte di governare sta anche in questo. L'ethos implica un rapporto con gli altri nella misura in cui la cura di sé rende capaci di occupare nella città, nella comunità o nelle relazioni interindividuali il posto appropriato per esercitare una magistratura o per avere rapporti di amicizia. Cioè, il saper esercitare il posto appropriato che noi viviamo rispetto agli altri. La cura di sé implica inoltre il rapporto con l'altro, nella misura in cui per avere una buona cura di sé bisogna ascoltare le lezioni di un maestro. Si ha bisogno di una guida, di un consigliere, di un amico, di qualcuno che ci dica la verità. Pertanto il problema dei rapporti con gli altri è presente in tutto lo sviluppo della cura di sé. Allora è una cura di sé che pensando a se stessi pensa all'altro? Assolutamente sì. Colui che ha cura di sé al punto da sapere esattamente quali siano i suoi doveri come padrone di casa, come sposo, come padre, avrà un buon rapporto con la moglie e con i figli. Quindi, conclusione parziale, diciamo che deriva da due corsi fondamentali come quelli sull'ermeneutica del soggetto e quella sul governo di sé e degli altri. Avere cura di se stessi è avere automaticamente cura degli altri, per tutto quel tipo di descrizione di situazione della vita che avevamo parlato prima. Però poi l'intervistatore, andando avanti con l'intervista, innesta massicciamente la questione del potere. E qua Foucault dà una delle ultimissime definizioni di potere. Andiamo a leggere un passaggio abbastanza lungo. Utilizzo raramente la parola potere quando mi capita, sempre per abbreviare l'espressione che uso sempre, le relazioni di potere. L'avevamo visto chiaramente. potere è le relazioni tra rapporti di forza. Ma ci sono degli schemi precostituiti. Quando si parla di potere, la gente pensa immediatamente a una struttura politica, a un governo, a una classe sociale dominante, al padrone di fronte allo schiavo, eccetera. Quando parlo di relazioni di potere non penso affatto a questo. Voglio dire che nelle relazioni umane, qualunque esse siano, che si tratti di comunicare verbalmente come stiamo facendo adesso, o di relazioni d'amore, istituzionali o economiche, il potere è sempre presente. Quindi, in tutto il discorso che abbiamo definito prima, l'elemento del potere non è mai estraneo. Mi riferisco alla relazione all'interno della quale uno vuole cercare di dirigere la condotta dell'altro. Qui stiamo facendo uno scatto che è piuttosto sensibile. Sta scivolando via in maniera molto soft, però stiamo parlando, in questo caso, di un soggetto che non è più passivo rispetto al potere, cioè non stiamo più parlando di un regime di dispositivi che genera processi di soggettivazione, stiamo parlando anche di un soggetto inserito all'interno di questi regimi di dispositivi in maniera che possa dirigere le condotte degli altri, che è uno degli elementi costitutivi della cura di sé. Sono dunque relazioni che possono essere riscontrate a livelli diversi, sotto forme diverse. Le relazioni di potere sono relazioni mobili, possono cioè modificarsi e non sono date una volta per tutte. Il fatto, per esempio, che io sia più anziano che all'inizio voi siate intimiditi può ribaltarsi nel corso della conversazione e può essere che io diventi timido di fronte a qualcuno proprio perché è più giovane. Le relazioni di potere sono dunque mobili, reversibili e instabili. Questa è una delle aggettivazioni più belle che secondo me Foucault abbia mai dato sul potere. Mobile. Quindi il potere non è una struttura cristallizzata, scusatemi, le relazioni di potere non sono strutture cristallizzate statiche. Questo non implica automaticamente andiamo tutti verso i processi di liberazione radicale. Implica, possiamo giocare la nostra libertà all'interno di queste relazioni di potere. Reversibile. Reversibile nel senso in cui le relazioni di potere possono essere ribaltate. Ricordiamoci sempre la definizione semplicissima microfisica del potere come rapporto di forze. Noi siamo situati all'interno di un determinato rapporto di forze quando entriamo all'interno del regime di dispositivi, ma non è detto che questo rapporto di forze debba essere per forza consolidato e debba rimanere per forza quello per sempre. È un rapporto di forze che può essere anche modificato e instabile. Questa chiaramente è una concezione del potere. Foucault qua sta dicendo, noi siamo immersi all'interno di relazioni che di nuovo non sono relazioni stabili, relazioni statiche, relazioni definite. Sono relazioni che possono subire degli smottamenti, sono relazioni che possono subire delle catastrofi. Sì. No, sta dicendo che i rapporti di forza e la libertà, come qua sta cercando di portare avanti, sono costitutivi fondamentalmente di ogni situazione. Non vuol dire che si riduca. Non vuol dire che. Nelle relazioni tra esseri umani, se non due forze che si scontrano e che si esercitano, e a volte per valere una, a volte per valere l'altra, c'è solo questo. Questa è la grande lezione di Nietzsche, quando Nietzsche ha scritto la genealogia della morale, però questo, che la morale non ha alcuna sostanza ontologica, non c'è nessuna ontologia, non c'è nessun concetto di bene, di nulla, che sono tutte cristallizzazioni di rapporti di forza. Questo è l'istituto. E tra l'altro qua aggiungerei un altro elemento, che i rapporti di forza non sono unici, cioè in ogni situazione noi non individuiamo solamente un determinato rapporto di forza, ma siccome noi siamo sempre quasi, sembra quasi Hume, non è Hume chiaramente, però siamo sempre un fascio di piani che si intersecano, questi piani si intersecano sempre costitutivamente nello stesso momento, e quindi io in questo momento posso avere un determinato statuto, perché sto parlando di fronte a voi, che stabilisce un rapporto di forza rispetto a voi, ma sono allo stesso tempo la persona che con voi ha intessuto tutt'altro tipo di relazioni in altri momenti, e di fronte per esempio a un gruppo così eterogeneo composto da colleghi, amici, studenti, per cui ho un altro ruolo, eccetera, eccetera, tutto questo in questo momento è totalmente intersecato, è totalmente simultaneo, mi verrebbe da dire, e quindi il rapporto di forza non è uno, ma c'è sempre un gioco fra questi, all'interno del singolo rapporto, è un gioco fra questi differenti tipi di rapporto. E poi come continua? Bisogna anche sottolineare che le relazioni di potere possono esistere soltanto nella misura in cui i soggetti sono liberi. Se uno dei due fosse completamente a disposizione dell'altro e diventasse una cosa sua, un oggetto su cui poter esercitare una violenza infinita e illimitata, non ci sarebbero relazioni di potere. Affinché si eserciti una relazione di potere, bisogna dunque che dalle due parti esista sempre almeno una certa forma di libertà. Anche quando la relazione di potere è completamente squilibrata, quando si può veramente dire che uno ha tutto il potere sull'altro, un potere può esercitarsi sull'altro soltanto nella misura in cui quest'ultimo ha ancora la possibilità di uccidersi, di buttarsi dalla finestra o di uccidere l'altro. Questo vuol dire che nella relazione di potere vi è necessariamente possibilità di resistenza, perché se non ci fosse possibilità di resistenza violenta, di fuga, di sotterfugio, di strategie che ribaltano la situazione, non ci sarebbero affatto relazioni di potere. Un famoso slogan contemporaneo, resilient, not efficient, è questo. La resilienza è quella proprietà fisica di alcuni oggetti di mantenere la propria coerenza, di mantenere se stessi, forse usato oggetti in maniera del tutto... sostanze, grazie. Di alcune sostanze, di mantenere la propria coerenza, di mantenersi se stesse di fronte a modificazioni ambientali. È molto simile a questa pratica di resistenza. Cioè la resistenza è la possibilità di non essere totalmente efficienti, cioè la possibilità di non essere, di non abdicare totalmente a sé per sottomettersi completamente al regime dei dispositivi. Data questa forma generale, mi rifiuto di rispondere alla domanda che talvolta mi viene posta, ma se il potere è dappertutto allora non c'è libertà. Io rispondo, se le relazioni di potere attraversano tutto il campo sociale è perché la libertà è dappertutto. Ora, gli stati di dominio esistono effettivamente. In molti casi le relazioni di potere sono fissate in modo da essere perpetuamente simmetriche da limitare estremamente i margini di libertà. E poi qua fa una serie di esempi. Ma l'affermazione, lei vede il potere ovunque, allora non c'è posto per la libertà, mi sembra assolutamente inadeguata, un'idea che non mi si può attribuire. Quindi, nel percorso di oggi, secondo punto che vorrei che rimanesse è questo, relazioni di potere e libertà come elementi costitutivi all'interno di qualsiasi processo di autoformazione per sé. Quindi prima avevamo raggiunto un primo punto che era quello del rapporto fra cura di sé come cura degli altri. Secondo punto, siccome dobbiamo occuparci degli altri, siccome dobbiamo governare gli altri, direi che lo sfondo su cui si va a collocare questa cura degli altri è uno sfondo di relazioni di potere che presuppongono la libertà costitutiva di chi è all'interno di queste relazioni di potere. Nell'intervista, poi successivamente, si innesta il tema della libertà. Perché oggi, questa è la domanda, dovremmo avere accesso alla verità in senso politico, cioè nel senso della strategia politica contro i diversi punti di blocco del potere nel sistema relazionale? E Foucault risponde, infatti è un problema. Dopotutto, perché la verità? Domanda ingenua, ma domanda assolutamente abissale. E perché si ha cura della verità, d'altronde, più che di se stessi? Quest'uomo che insegue quest'uomo moderno che insegue la verità piuttosto che inseguire se stesso? E perché si ha cura di sé soltanto attraverso la cura della verità? Penso che qui si tocchi una questione fondamentale, che è direi la questione dell'Occidente. Che cosa ha indotto tutta la cultura occidentale a ruotare intorno a questo obbligo di verità che ha assunto forme così diverse? Dato che le cose sono quelle che sono, finora nulla ha potuto mostrare che si possa definire una strategia esterna a esso. È proprio all'interno dell'obbligo di verità che è possibile muoversi in un modo o nell'altro, talvolta contro gli effetti di dominio che possono essere legati a delle strutture di verità o a delle istituzioni che sono incaricate della verità. Parlando molto schematicamente, si possono fare numerosi esempi. Qua ne cito uno che secondo me è chiarissimo. Il movimento che si definisce ecologico, che d'altronde è molto antico, non risale soltanto al XX secolo, ha spesso avuto un rapporto un po' ostile con una scienza, o in ogni caso con una tecnologia che si legittima in termini di verità. Ma in realtà anche l'ecologia faceva un discorso di verità. La critica poteva essere fatta in nome di una conoscenza che riguardava la natura o l'equilibrio dei processi del vivente. Si sfuggiva dunque a un dominio di verità non giocando un gioco completamente estraneo al gioco delle verità, ma giocando il gioco diversamente, o giocando un altro gioco, un'altra partita, altre mosse nel gioco di verità. Credo che avvenga lo stesso nell'ordine della politica, in cui la critica del politico poteva essere fatta a partire, per esempio, dalle conseguenze dello stato di dominio di questa politica infondata, ma poteva essere fatta soltanto giocando un certo gioco di verità, mostrando quali siano le conseguenze, mostrando che esistono altre possibilità razionali, insegnando alle persone ciò che non sanno sulla loro situazione, sulle loro condizioni di lavoro, sul loro sfruttamento. Ecco il terzo punto. Cura di sé come cura di altri, relazioni di potere e libertà, presenza dei giochi di verità. Questo è è l'elemento fondamentale trovato da Foucault sul proprio percorso nell'ultimo periodo ed è l'elemento anche che si trova meno affrontato. Cos'è questo gioco di verità? Lo vedremo nella seconda ora di oggi, come lo affronta proprio l'ultimissimo Foucault. Però qua sta dicendo una cosa molto importante, che non è nient'altro che ridire in una maniera diversa e più articolata quello che già si stava dicendo negli anni 60, cioè che comunque c'è una condizione di sapere che si articola però con una produzione di verità differente, con una produzione di verità che qua è legata strettamente alla vita, c'è una condizione di sapere che qua diventa gioco di verità, che è una condizione ineliminabile, per cui noi possiamo porci contro un determinato discorso di verità, ma questo porci contro un determinato discorso di verità, qualunque esso sia, il prendere posizione in una situazione assolutamente quotidiana contro qualcosa, ci sta mettendo, ipso facto, in un altro gioco di verità. Gioco di verità che noi possiamo costruire in quel momento, gioco di verità che ci è esterno, che ci può essere proposto come scienza, che ci può essere proposto come ideologia, che ci può essere proposto come stereotipo, ma in quel momento noi comunque non possiamo sottrarci a un gioco di verità differente. Gioco, attenzione, la parola gioco rimanda sempre a questo. Non è il gioco nel senso del play, non è un ruolo che andiamo a interpretare, è un gioco nel senso di un equilibrio instabile e fluttuante fra qualcosa che va avanti. E poi l'intervistatore porta il discorso sul soggetto inevitabilmente. Tale questione rimanda al problema del soggetto, poiché nei giochi di verità si pone la questione di sapere chi dice la verità, come la dice e perché la dice. Cioè, se siamo dentro il gioco di verità, noi che ne siamo dentro come soggetti, come ne siamo dentro? Perché nel gioco di verità si può giocare a dire la verità, c'è un gioco, si gioca la verità o la verità è un gioco. La parola gioco può indurre in errore, quando dico gioco dico un insieme di regole di produzione della verità. Ecco il punto fondamentale. Cioè, noi stiamo giocando un gioco perché in questo momento siamo all'interno di regole. Analizziamo sempre la situazione presente, ci sono alcune regole che nascono dal dispositivo in cui siamo inseriti in questo momento ed è all'interno di queste regole che nasce il gioco di verità che si struttura in questo momento, che viene prodotto in questo momento, per me, per voi, rispetto a quello che dico, rispetto a voi, rispetto a me stesso. Non è un gioco nel senso di imitare o di recitare, si tratta di un insieme di procedure che conducono a un certo risultato, che può essere considerato in funzione dei suoi principi o delle sue regole di procedura, come valido o no, come vincente o perdente. Quindi, la verità viene prodotta, e poi, però, abbiamo un passaggio successivo, che è quello della validazione della verità, cioè la verità, appunto, non ha mai nessuna ipotesi sostanziale. In Foucault la verità ha sempre questa dimensione processuale e questa dimensione temporale. Che cosa significa validare la verità di questo momento? Per esempio significa sconfessare pubblicamente in seguito totalmente quello che sto dicendo in questo momento, con un approccio diverso, oppure dicendo hai citato caso, oppure hai sbagliato completamente nel sovraspiegare quello che c'era scritto nel testo. Ci sarà qualcuno che magari invece dice corretto. È questa la validazione della verità, però chi lo farà si troverà all'interno di un gioco della verità che può essere il mio gioco della verità, può essere un gioco della verità alternativo. E poi come vincente o perdente, perché l'avevamo citato all'inizio, già nel passaggio del 74, la verità come strategia. Perché la verità è una strategia? Perché la verità è sempre associata a delle relazioni di potere. Perché il potere è sempre quello, qualcosa a cui è legato la verità in questo caso, ok? E quindi la verità può vincere o può perdere. Ci sono certe verità che vincono e che rimangono come verità, ci sono certe verità che perdono e scompaiono completamente, ma nel momento in cui sono state prodotte, sono prodotte come verità. E poi l'intervistatore... Di validazione, sì. Se non siamo gli stessi sistemi di validazione, si entra in uno stato in cui uno può continuare a usare la verità e l'altro con altro. Ovviamente comunque anche il caso italiano, c'è cioè una situazione in cui c'è una sospensione del gioco di verità, c'è cioè uno e l'altro. Quindi non c'è un sistema, ci sono scarsi sistemi di validazione rispetto. Non so, vengono in mente delle situazioni dove è difficile entrare in un gioco anche con un'alternativa e produrre comunque una validazione. Quindi la mia domanda è, quindi non so, il sistema di validazione quale c'è, deve essere condiviso, non è condiviso, come fai a... Il sistema di validazione... Voi... Se è condiviso e se non è condiviso magari una battaglia sul tema di validazione, cioè non capisco che cioè, se c'è un sistema, se le regole di validazione sono stabilite a priori, se in queste c'è un ampio accordo, eccetera, eccetera, il caso italiano che tu dici è esattamente questo, in questo momento in Italia non c'è un disaccordo sulle regole di valutazione, no? La difesa tra destra e sinistra non riguarda le regole del gioco, tranne che la comunità in particolare. Se si d'accordo con le regole sono violate. Allora, bisogna vedere se c'è qualcuno che ha, come sempre, la forza di imporre regole, cambiamenti in quelle regole. Se questa forza c'è, bene, si farà un cambiamento di violazione e quindi si farà un certo processo di revisione, quindi di invalidazione di certe cose. Se questa forza non c'è, non ci sono crisi, potrai votare all'infinito quanto vuoi, ma non capirà mai nulla. Però attenzione, dalla salute non ce la faremo a uscire tirandoci il pericolino, perché sempre la chiesa, che ce lo benedica. E quindi, dopo Gödel, arriviamo alla domanda. La verità non è una costruzione? E la risposta è è interessante. Dipende. Ci sono giochi di verità in cui la verità è una costruzione, altri in cui non lo è. Può esserci, per esempio, un gioco di verità che consiste nel descrivere le cose in questa e in quella maniera. Chi fa una descrizione antropologica di una società non fa una costruzione, ma una descrizione che ha alcune regole storicamente mutevoli, in modo che in un certo senso si può dire che è una costruzione rispetto a un'altra descrizione. Questo non significa che di fronte non c'è nulla e che tutto è frutto della mente di qualcuno. Foucault non è un costruttivista da questo punto di vista, assolutamente, né è un solipsista né è un idealista. Cioè c'è una realtà di fronte, c'è, e negabilmente c'è. Da quello che si può dire, per esempio, di questa trasformazione dei giochi di verità, alcuni traggono la conclusione che si è detto che non esisteva nulla. Mi hanno fatto dire che la follia non esisteva, mentre il problema era esattamente l'inverso. Si trattava di sapere come la follia, nelle differenti definizioni che a un certo momento sono state date, sia stata integrata in un campo istituzionale che la costituiva come malattia mentale, collocandola in un determinato posto accanto alle altre malattie. Qui proprio arriva un ribaltamento di piano. Cioè, è proprio perché non c'è niente di astratto che possiamo chiamare verità, ma che c'è un insieme di pratiche, di comportamenti, di cose di fronte a noi, che allora possiamo parlare di giochi di verità. È proprio il contrario, cioè non c'è una verità che si costruisce, ma c'è una verità che si interseca fittamente con un qualcosa che lavora in una determinata maniera. Cioè, la follia esiste, la follia è esistita e si è incarnata in tutta una serie di momenti storici che lui analizza nel suo libro. Non vuol dire che per il fatto che abbia mostrato, ci sia un'operazione che si chiami genealogica, che svuota tutto e non rimane niente. È proprio il contrario, la genealogia mostra come le cose si siano incarnate progressivamente nel tempo. È proprio l'opposto. E per concludere con la lettura di questa intervista, e per chiudere un po' questa parte, lei dice che il primo punto utile di resistenza al potere politico sta nel rapporto di sé con sé, per tornare al sé. Non credo che l'unico punto di resistenza possibile al potere politico, inteso proprio come stato di dominio, stia nel rapporto di sé con sé. Dico che la governalità implica il rapporto di sé con sé, il che significa precisamente che, con la nozione di governalità, mi riferisco all'insieme delle pratiche attraverso cui ci si può costruire, definire, organizzare, strumentalizzare le strategie che gli individui, nella loro libertà, possono avere tra di loro. Ripeto, pratiche attraverso cui ci si può costruire, definire, organizzare, strumentalizzare le strategie che gli individui, nella loro libertà, possono avere tra di loro. E a questo punto però c'è uno scatto nell'ultimissima produzione di Foucault, proprio a partire da qui. Foucault avverte che, diciamo, in questa definizione del rapporto con sé e con gli altri, in questa costruzione del sé come costruzione degli altri, in questa questione delle relazioni di potere e in questa questione dei giochi di verità, manchi ancora un passaggio nel rapporto fra sé e l'altro. Questo passaggio viene esplicitato nel corso dell'82-83 e viene reso sistematico nel corso dell'83-84 e prende il nome di paresia. Nella paresia, come andremo a vedere fra poco, le linee che avevamo viste divise all'interno dell'intervista vengono unificandosi. E utilizzo sempre i testi presenti all'interno della dispensa. Lezione del 12 gennaio dell'83. Sapete molto bene che la presenza di un enunciato performativo presuppone il fatto che ci sia un certo contesto, più o meno strettamente istituzionalizzato. Un individuo che sia in possesso dello statuto richiesto, che si trovi in una situazione ben definita. Essendo questa la condizione che rende performativo un enunciato, ebbene vi sarà un individuo che formula questo enunciato. Iniziato oggi dicendo cominciamo, per il fatto che dicevo cominciamo, abbiamo cominciato. Dicevo io che dicevo questo. Però, tra questo enunciato performativo e la parlesia, di cui ci occupiamo adesso, vi è una differenza notevole e di capitale importanza. In un enunciato performativo, gli elementi della situazione sono tali che l'enunciato, una volta pronunciato, è seguito da un effetto. Un effetto conosciuto, regolato in anticipo, codificato, che definisce esattamente il carattere performativo dell'enunciato. Cioè, c'era una situazione di regole per cui per il fatto che io dicevo buonasera, cominciamo, abbiamo cominciato. Nella parlesia, al contrario, quale che sia il carattere abituale, familiare, quasi istituzionalizzato della situazione in cui si realizza, ciò che la produce è il fatto che l'introduzione, l'irruzione del discorso vero, determina una situazione aperta o piuttosto apre la situazione e rende possibile un certo numero di effetti che non sono propriamente conosciuti. La parlesia non produce un effetto codificato, essa apre la possibilità di un rischio indeterminato e a tale rischio indeterminato è evidentemente funzione degli elementi della situazione. Primo punto fondamentale, la parlesia, il dire vero, il parlare franco, genera una situazione improbabile, non conosciuta, che è al di fuori delle regole codificate. La parresia, il dire il vero, apre una possibilità che il normale funzionamento delle cose non avrebbe implicato. La parresia, il dire il vero, il rischio, uscire dalle regole. Stiamo già iniziando a toccare tutti i punti, verità, potere, sé, che prima avevamo delineato. Andiamo avanti sempre con la parresia. Nella parresia stessa vi è l'apertura di una possibilità di rischio. Anche in presenza di un enunciato di verità, non vi è parresia lungo l'itinerario di una dimostrazione realizzata in condizioni neutre, poiché colui che enuncia la verità in tali condizioni non si assume nessun rischio. Cioè, se io vado a dimostrare di fronte a un congresso di matematici l'ipotesi di Riemann, non sono in una posizione parresiastica, perché mi sto muovendo all'interno di un sistema di regole, sono all'interno di un dispositivo che presuppone che io vada a fare esattamente quello. L'enunciato di verità non prelude ad alcun rischio se viene considerato solo come elemento di un percorso dimostrativo. Ma a partire dal momento in cui l'enunciato di verità, sia esso interno pensato a Galileo o esterno a un percorso dimostrativo, costituisce un evento dirompente che espone al soggetto che parla un rischio non definito o mal definito, a partire da tale momento si può dire che vi sia parresia. Questo è il primo aspetto. Quindi la parresia come apertura di una possibilità, come apertura, come infrazione di regole, come assunzione di un rischio. Punto primo. Punto secondo. In secondo luogo, stando sempre al paragone con l'enunciato performativo, sapete molto bene che è molto importante in esso lo statuto del soggetto dell'enunciazione. Chi apre la seduta, per il fatto di dire la seduta è aperta, bisogna anche che ne abbia l'autorità e che sia presidente della seduta. Chi mi dice mi scuso produce un enunciato performativo solo a partire dal momento in cui si trova effettivamente nelle condizioni di scudarsi. Chi dice ti battezzo si presuppone che sia prete. Lo stesso per le scuse. A appunto, mi scuso, diventa performativo non certo perché il soggetto è sincero quando lo dice. Lo diventa solo perché ha pronunciato la frase. La stessa cosa se dicesse ti aspetto al bar e vedrai. In compenso ciò che caratterizza la parvesia è questa indifferenza, non è possibile. Non solo, cioè l'indifferenza rispetto alla verità di quello che si dice, scusatemi. Non solo, essa, quindi il secondo punto, è sempre una sorta di formulazione della verità a due livelli. Un primo livello è quello dell'enunciato della verità stessa. Qui, come nel performativo, si dice la cosa, punto e basta. Un secondo livello, è quello che interessa a noi, è quello dell'atto paresiastico, dell'enunciazione paresiastica, cioè l'affermazione che questo vero che si dice lo si pensa, lo si stima, lo si considera effettivamente ed autenticamente vero. Cioè, nel momento paresiastico, io vado a dire qualcosa che per me è vero. Dico il vero e penso sul serio che sia vero. E penso veramente di dire il vero nei momenti in cui lo dico. Lasciamo perdere sempre l'ipotesi di una verità là, ok? È quello, se io credo che quello che dico sia vero e ci credo, crederci, non credere, allora basta per il momento paresiastico per dire il vero. L'aspetto indispensabile dell'atto paresiastico è questo sdoppiamento o raddoppiamento dell'enunciato di verità. Per dirla altrimenti, credo che all'interno dell'enunciato paresiastico vi sia qualcosa che possiamo chiamare un patto, il patto del soggetto che parla con se stesso. Di nuovo, vedete che qua stiamo arrivando con la paresia a toccare il punto del sé. Un patto che ha due livelli, il livello dell'atto di enunciazione e poi il livello implicito o esplicito attraverso il quale il soggetto si lega all'enunciato che ha appena pronunciato ma anche all'enunciazione. Ripeto, il livello dell'atto di enunciazione, io dico il mio vero, e poi il livello attraverso cui mi lego a questo atto di enunciazione. Perché ci devo credere? Perché l'abbiamo detto prima, perché la paresia è un'assunzione di rischio, perché la paresia è la rottura di una situazione. Come faccio a non credere a quello che dico nel momento in cui io mi sto esponendo al rischio? Nel momento in cui vado a dire al tiranno tu sei un tiranno? Nel momento in cui vado a dire al mio capo tu stai sbagliando tutto? Ok? È quella la situazione paresiastica, è quella la situazione in cui posso avere anche torto secondo altri criteri, ma è quella la situazione in cui io credo così fermamente in quello che dico quello che dico e me ne assumo le responsabilità di dirlo. In questo senso il patto è doppio. Segue poi, scusatemi, un altro accenno sempre dalla lettura di questo testo. Al di sopra di questo enunciato, essa comprende la paresia, un elemento implicito che si potrebbe chiamare un patto paresiastico del soggetto con se stesso, attraverso il quale egli si lega al contenuto e all'atto stesso dell'enunciato. E questo è il momento fondamentale della paresia, no? Di essere un atto e un qualcosa che viene detto. Ma il terzo momento qual è? Terzo punto, io sono colui che ha detto questo. Cioè, nell'atto paresiastico, io dico qualcosa. Perché la paresia, quindi, iniziamo a vedere che assume così tanta importanza nell'ultimo Foucault? Perché, cavolo, è il porsi di fronte al dispositivo e il dire al dispositivo io in questo momento mi sto sottraendo a te. Mi sto sottraendo perché tu mi dettavi un insieme di regole, tu mi ponevi all'interno di una situazione e io sto generando l'impossibilità di questa situazione, sto rompendo questa situazione, ti sto portando, tu dispositivo, tu agente, persona fisica del dispositivo, ti sto portando su un terreno che per me prima di tutto, ma forse anche per te, è un terreno nuovo. E quindi, la paresia, e qui vi assumo pregandomi di perdonarmi se sono stato troppo lento e statico, è dunque, primo, una maniera di dire il vero. una maniera perché è sempre situata in situazione. Secondo, la parresia è una possibilità di rischio. Terzo, la parresia è un patto che lega a un enunciato di verità e all'enunciazione della verità stessa. È un patto che lega a un contenuto e a un atto. Quarto, la parresia è una maniera di legarsi a se stessi, cioè non solo a un qualcosa che viene detto e al fatto di dirlo, ma cavolo, è la maniera in cui io veramente mi do un doppio giro di corda in quel momento intorno a me stesso. E poi la parresia, quinto punto, è l'etica del dire il vero nel suo atto rischioso e chiaramente libero. Quindi con la parresia vengono tirati una serie di fili. L'etica del dire il vero, quindi l'etica nel senso di un rapporto di sé con sé e un rapporto con gli altri, di dire il vero, quindi fondata, attenzione, su un regime di verità, certo, ma un regime di verità che, o meglio, su un gioco di verità, perdonatemi, che il soggetto sta quasi generando in quel momento nel suo atto rischioso. È Platone che di fronte al tiranno di Siracusa va a dire certe cose e rischia della sua vita, nel suo atto rischioso e quindi per questo stesso libero. Quindi Foucault individua nella parresia, che sembrava come la cura di sé quando le prime volte che si legge Foucault, perché tira fuori questa cosa, questo grecismo anche fastidioso? Perché nella parresia si incrociano veramente tantissime istanze. L'istanza della libertà, l'istanza della verità, l'istanza del potere, l'istanza degli altri, l'istanza del sé. È un qualcosa che va a attivare tutte queste fila. Nella parresia, come dice dopo, Foucault individua il legame tra libertà e verità. Cioè, non è sono libero perché ho dimostrato una verità, ma sono libero perché dico la verità. Qua non c'è niente di cristologico in questo, attenzione. La verità vi renderà liberi non è il paradigma cristiano, perché nel paradigma cristiano abbiamo una determinata concezione della verità. Se vogliamo porre un'analogia, però, abbiamo una analogia abbastanza forte sul discorso dell'atto. Cioè, dire la verità è essere liberi. E poi una domanda. Come e in quale misura l'obbligo di verità, anzi, l'obbligarsi alla verità, la parresia è una scelta, cioè è la scelta più radicale di tutte, è al tempo stesso esercizio della libertà ed esercizio pericoloso della libertà, e qua andiamo verso la fine di oggi, spero di fare in tempo. Foucault dedica l'ultimo corso della sua produzione, Il coraggio della verità, concede la maggior parte dell'ultimo corso ai cinici, filosofia greca che non aveva affrontato o esaurito o analizzato come gli stoici e gli epicurei nei corsi precedenti. I cinici lo stanno portando in una determinata direzione. Quale direzione sta trovando Foucault rispetto al discorso dei cinici? Cosa facevano i cinici? I cinici basavano la propria filosofia su veramente un'esibizione brutale della propria esistenza, un'esibizione brutale di condizioni di verità, un'esibizione brutale che implicava lo spogliarsi quasi totale di ogni possibile sovrastruttura politica, sociale, di convenienza dettata dalle circostanze per dare la brutalità dell'essere umano di fronte all'essere umano, con comportamenti assolutamente provocatori, condotte che erano totalmente contro la maniera di vivere del tempo. Foucault li studia, li documenta, li manifesta, li ragiona, li vitrifica, e alla fine di questo percorso cosa tira fuori? Cos'è questo coraggio della verità? È la parresia, di sicuro. Però la parresia diventa un momento fondamentale, una pratica, però diventa anche, vorrei dire dal punto di vista ontologico, forse il momento di chiusura per comprendere il processo di soggettivazione. E quello che vorrei fare adesso è tentare di delineare attraverso qualche spunto questo. Inizio dalla nota di Gross al testo. Condurre una vita vera, qua appunto abbiamo lo scatto da dire il vero alla vita vera, cioè una dimensione di verità che non è più solamente quella del dire e della produzione, ma rendere anche visibile la verità della propria esistenza, nelle forme di comportamento per esempio, significa quindi condurre una vita totalmente pubblica ed esposta, quindi il non dissimulato, come dice Gross, il non nascondere, il far sì che il sé sia un sé totalmente pubblico e totalmente visibile. Un'esistenza completamente denudata e povera. La purezza. Qua bisogna fare una distinzione che secondo me è importante. C'è una natura umana nei cinici, chiaramente. Non c'è una natura umana in Foucault. Okay? Quindi l'animalità come livello quasi zero dell'esistenza, la nudezza, la povertà totale, l'animalità dell'uomo è una condizione che serve a Foucault, ma non è l'obiettivo di questo discorso, chiaramente. Appunto, una vita completamente selvaggia e animale, terzo punto. Quindi visibilità totale, povertà totale, animalità, e che manifesti una sovranità senza limiti. Esercizio incontrollato del potere, cioè essere programmaticamente sempre al di fuori di qualsiasi dispositivo. Questa verità, definitivamente, è ciò che è insopportabile, al punto di abbandonare il dominio del discorso per iscriversi nell'esistenza. Cioè la vita vera marchia totalmente l'esistenza di chi la fa. E poi, anticipo un punto, però Gross lo dice in maniera molto bella, la vita vera non può che manifestarsi come vita altra. Vita altra. Le ultime parole in anticipo di Foucault al corso sono, e le riprendo fra poco, non c'è instaurazione della verità senza una posizione essenziale di alterità. La verità non è mai la stessa, non si può avere della verità se non nella forma dell'altro mondo, della vita altra. Non è l'altra vita, è la vita altra. Altro si sposta in funzione predicativa, non in funzione attributiva. In funzione predicativa verrebbe quasi da dire è un verbo questa vita altra, è un fare, è un'azione, è un comportarsi. Ma qual è l'elemento fondamentale di questa vita altra? Perché è così importante la vita altra? Perché la vita altra è uscire ontologicamente da una condizione per appunto acquisire una posizione totale di alterità rispetto a questa condizione. Cioè Foucault deve passare attraverso i cinici, cioè coloro che in una certa maniera avevano provato questo, per individuare il fatto che la vita altra, cioè una possibilità di vita totalmente differente, è la condizione per l'esplorazione della verità. È il riuscire ad acquisire una posizione nel mondo che mi faccia sottrarre a determinate relazioni, a determinati giochi, per trovarne altri. È un'esposizione ad un rischio, è un esercizio radicale della libertà, la vita altra, perché è l'esplorazione di una possibilità inesplorata, è proprio un'uscita. Contro cosa? Contro le discipline del controllo, chiaramente. E qua torniamo sulla modernità. Tutti i sistemi disciplinari diventano esterni nel momento in cui si va in questa posizione. Prima citavo il passaggio sul fuori irriducibile. La vita altra è l'assunzione di questo fuori irriducibile. Detto in altre parole, la vita altra è uscire da qualsiasi sistema di regole per tentare un'appropriazione del caos dell'esistenza come possibilità. E verificare sulla propria pelle, verificare, fare vero questa possibilità di appropriazione. E chiaramente uscita dalle discipline di controllo. Sottrazione rispetto ai regimi di verità. E in un passaggio, scusate, qua non ho citato, sottrazione rispetto ai signori della realtà. I signori della realtà sono i signori che in qualsiasi posizione generano la realtà, ci generano la realtà nel senso di quello che noi prendiamo come reale, una determinata attività politica che è la migliore, una determinata attività formativa che è la migliore e così via. Questa posizione radicale da assumere ci fa sottrarre al dominio dei signori della realtà. Questa posizione di vita altra implica essere testimoni della verità. I martyros, i testimoni, i martiri cristiani, coloro che vivevano sulla propria pelle l'assunzione di una determinata verità. Per loro non era una vita altra, era un'altra vita, quel punto è fondamentale, cioè l'assunzione della vita cristiana. La vita altra è quello al quadrato, è entrare in un mondo che si genera nel momento in cui io vi entro, che non esisteva prima. Come appunto l'espressione di Nietzsche, se non mi sbaglio, è inventarsi nuove possibilità di vita. E quindi, una vita radicalmente altra in quanto in rottura totale e sotto tutti gli aspetti con le forme tradizionali di esistenza. In questo senso la vita altra è un'arte, non è assolutamente il dandismo ottocentesco, novecentesco, è un'arte nel senso che è creazione di possibilità. E per ritornare alle sue ultimissime parole che ci sono negli appunti ma non ci sono nel discorso pronunciato durante la lezione perché non ci arrivò, non c'è instaurazione. La parola non è scelta a caso, non c'è instaurazione della verità senza una posizione essenziale di alterità. Cioè, l'instaurazione della verità, il costruire la verità, non il costruire in senso, ma il porre una verità, il produrre, okay, una verità, nasce nel momento in cui si va ad acquisire una posizione radicale di alterità, nel momento in cui c'è una fuoriuscita totale da se stessi, nel momento in cui si interiorizza un fuori totalmente sconosciuto. Ricordiamoci sempre, non è un fuori conoscitivo, è un fuori dell'esistenza, questo fuori totalmente sconosciuto. La verità non è mai la stessa, chiaramente, perché qua ci muoviamo sempre in un ambito di possibilità variabili. Non si può avere della verità se non nella forma dell'altro mondo e della vita altra. E questa è un po' la conclusione del discorso foucaultiano. Gross riassume benissimo questi punti con questa frase. La filosofia antica, però qua pensiamo sempre al Foucault contemporaneo, iscrive il problema del governo degli uomini, quindi la questione politica, sotto la dipendenza di un'elaborazione etica di un soggetto che possa far valore su se stesso e di fronte agli altri la differenza di un discorso di verità. Le tre dimensioni del sapere, del potere o del soggetto, o piuttosto della deridizione, della governamentalità e dei modi di soggettivazione, sono quindi qui presentati. Cioè, alla fine, nel corso dell'84, quella che era stata un'esplosione dopo tutta l'analisi del potere, trova un possibile fil rouge. Dimensioni sapere, potere, soggetto, però detto con parole nuove, deridizione, governamentalità e soggettivazione, sono legati da quello che abbiamo detto, da quello che forse è il concetto veramente finale di Foucault, la vita altra. E a questo punto, se il tempo me lo concede, vorrei riassumere in 6 punti quello che è stato detto in queste ultime 2 volte, che a questo punto penso sia un discorso che si va a chiudere pur con tutti i dubbi, punti di domanda che lascia. Primo punto è quello della soggettivazione. Da Rovatti: esistono quelle che lui chiama le soggettivazioni e che il soggetto padrone mette in ombra o addirittura cancella. Con un crescendo che va sottolineato relativamente all'ultimo decennio e con la conseguente consapevolezza della nozione che stava adoperando, Foucault non ha infine mai cessato di lavorare sulle soggettivazioni, tentando di farle emergere e parlare anche là dove apparivano interrate e condannate al silenzio. E quindi, alla fine della genealogia del soggetto, troviamo la soggettivazione, chiaramente, non i soggetti. Secondo punto. Le soggettivazioni non sono i soggetti, non prefigurano mai un blocco sostanziale, sociale, politico in cui arroccarci. Come dice benissimo Bodei, il lavoro di Foucault sul soggetto è costitutivamente interminabile. Perché? Perché il processo di soggettivazione trova dei punti ma li scavalca, o meglio, c'è quella metafora molto bella leibniziana, se non mi sbaglio, è relativa alla conoscenza, però mi piace applicarla qua, cioè che se come una nave che pensa di essere arrivata in porto, è vicina al porto, e poi improvvisamente arriva un refolo di vento colata di vento potentissima e si viene di nuovo sospinti in alto mare. Ecco, il processo di soggettivazione è questo. Bisogna capire come giocare questo avanti e indietro rispetto a un porto, cioè a un dire io sono così, io sono questa sostanza, sono questa cosa che non esiste. Cattiva domanda, risposta pessima. Terzo punto. Cura di sé e biopolitica sono allora le facce non contrapposte di una medesima ricerca, la cui complessità non è a oggi ancora stata attraversata appieno da chi intende raccoglierne gli effetti. Lo scenario interpretativo resta aperto, dato che occorre intrecciare molti fili che forse Foucault stesso avrebbe voluto unificare sotto il titolo di Giochi di verità. A questa complessità, quella di cui abbiamo parlato oggi, che viene per ultima solo accidentalmente, ma che in se stessa si proponeva piuttosto come un inizio di ricerche da compiere, si collega comunque il dato fattuale di una modificazione dello sguardo. Per cui la questione del soggetto, una volta approdata saldamente al problema delle pratiche di soggettivazione, diventa programmatica e perde così ogni carattere di residualità. Terzo punto, la questione della modificazione dello sguardo. Ovvero, abbiamo svuotato il soggetto, cioè non l'abbiamo trovato, abbiamo trovato le soggettivazioni. Le soggettivazioni sono delle pratiche, in quanto pratiche sono interminabili, sono un continuo fluire e all'interno di questo fluire troviamo le modificazioni dello sguardo continuo. Qua non dico che Foucault sta facendo un'analisi esistenziale, ma sta descrivendo in una maniera potentissima delle condizioni di vita. Cioè, qua è veramente uno di quei punti in cui la filosofia, pur nella sua astrazione, incontra l'esistenza di tutti, come in certe pagine molto felici di Heidegger, come in tantissimo Nietzsche, in cui la filosofia incontra la vita di ognuno in una maniera molto stretta. Quarto punto, e qua è sempre Rovatti e mi piace arrivare in fondo a questa definizione, è la libertà. Questa libertà innanzitutto non è la liberazione dal potere. Libertà significa piuttosto, primo, praticare un'uscita da se stessi, cioè non accomodarsi su se stessi, cioè riuscire ad acquisire per vivere il vero, per avere maggior consapevolezza di se stessi, per intensificare la propria vita, per sottrarsi a relazioni di potere predefinite, è uscire da se stessi. Cioè non dirsi io sono e darsi un elenco di predicazioni per cui all'ottava ci siamo esauriti, ma piuttosto quali sono le strategie per cui una volta che mi sono dato queste predicazioni io posso uscire da queste predicazioni. Lui lo dice a un certo punto, io posso essere allo stesso tempo docente universitario, intellettuale, eccetera, eccetera, ed esco da ognuna di queste predicazioni per entrare nell'altra. Quindi essere liberi è praticare questa fuoriuscita continua. Secondo punto, è un'alterazione della propria condizione di soggetti bloccati nei dispositivi identitari. Cioè, di fronte ai dispositivi identitari che ci dicono tu sei questo, tu sei quello, essere liberi significa alterare questa condizione. Terzo punto, bellissimo, un allargamento degli orizzonti dell'abitudine. Qua sembra quasi Hume. Hume aveva trovato l'abitudine come fondamento della conoscenza, aveva cercato di romperla ed era rimasto con un fascio di foglie secche in mano. Eravamo nel 1700. Foucault lo fa rispetto alla vita. Cioè dice l'abitudine è un esercizio di non libertà. L'abitudine cos'è? È lo stesso mezzo pubblico, è la stessa condizione lavorativa, è lo stesso regime di pasti, è lo stesso regime di rapporti sessuali, è lo stesso regime di trasmissioni televisive viste, è lo stesso regime di discorsi fontati, è l'essere l'esperto di musica anni 80 e continuare a qualificarsi rispetto ai propri amici come esperto di musica anni 80 per un decennio, finché veramente il discorso diventa noiosissimo, è uscire da tutto questo. E poi, quarto punto, è anche un'eccedenza rispetto a se stessi e dunque a se stessi. Ovvero, qua sembra quasi il fatto che c'è dentro quasi, non lo so, del neoplatonismo, però eccedere, cioè riuscire a vivere, detto in un vocabolario totalmente diverso, in una sovrabbondanza d'essere. Cioè significa riuscire a creare un pezzo del sé in continuazione, significa vivere creando se stessi, significa vivere interpretando se stessi e vivendo se stessi come una possibilità sempre aperta. Quinto punto, l'assunzione di un rischio di esposizione. E questo chiaramente è il pericolo. Cioè bisogna essere consapevoli che questo esercizio di libertà è un esercizio assolutamente rischioso. E quindi forse tutto il discorso sulla cura di sé, cioè tutto il fatto che comunque Foucault arrivi da 3 anni in cui insisterà sugli esercizi, sulle prove, sul fatto di essere preparati, sia fondamentale. Mi è venuto in mente, rileggendo questo, quando Deleuze e Guattari parlano del corpo senza organi, che è di una radicalità pari, a un certo punto dicono trova il tuo corpo senza organi, ma poi dicono il corpo senza organi va praticato e maneggiato con cautela, pena la morte e la dissoluzione psichica dell'io. Cioè questo richiamo è valido assolutamente anche qui. Non vuol dire... Nel discorso foucaultiano il rischio è buttarsi senza paracadute, la paresia è quello, però è buttarsi senza paracadute dopo aver fatto le prove, dopo essere consapevoli, consapevoli nel senso dell'esistenza, non nel senso della conoscenza, di che cosa comporti questo buttarsi senza paracadute, altrimenti l'individuo appunto va di fronte alla dissoluzione, va di fronte al crollo e qualsiasi ipotesi sul sé svanisce perché è se stesso che svanisce. E quindi, quinto punto, se questa è la libertà, scusatemi, no no, perdonatemi, questo è il quinto punto sulla libertà, quinto punto dell'elenco di riepilogo. Dopo le... era ABCDE, scusate. 5-1, 5-2, 5-5. La formula con cui, che è già presente nella cura di sé e che è un po' la, come dice Deleuze il mot de Chiron, la parola lacerante di Foucault dell'ultimo periodo, se de prendre de soi-même, s'arracher de soi-même, sradicarsi, strapparsi da se stessi. Che cos'è questo strapparsi da se stessi? È appunto l'esplorazione di nuove possibilità. L'esplorazione di nuove possibilità non è depredicazione, cioè non è smantellamento di predicati, è generazione di nuovi predicati. Alla fine del se deprendre de soi-même, dello sradicamento da me stesso, io non devo trovare una terra ignota, una terra vuota. Io devo trovare uno spazio comune, uno spazio in cui posso accogliere gli altri che io ho costruito con questo sradicamento. Cioè il comune, il nuovo comune, il nuovo spazio comune, io non lo trovo quando mi sottraggo tutte le identità. Io il nuovo spazio comune lo trovo quando sono stato in grado di predicare me stesso, di creare un qualcosa che consenta l'accoglimento dell'altro, cioè che consenta di prendermi cura di me, come avrebbe detto 2 anni prima, e prendermi cura degli altri in un'altra maniera. Quindi un qualcosa in cui come possibilità di vita, io non pratico questa possibilità di vita in maniera solipsistica, io pratico questa possibilità di vita come possibilità della mia vita rispetto agli altri. Altrimenti sarebbe una scelta edonistica, altrimenti sarebbe una scelta irresponsabile, sarebbe una scelta inconsapevole, sarebbe una scelta vuota. E a chi vado a dire la verità nel momento in cui... di fronte a chi pratico la verità nel momento in cui nello spazio che creo non c'è nessuno che mi ascolta, nessuno che mi vede, nessuno che si relaziona con me? È questo il nuovo comune, che è un comune fortemente politico, che deriva da un momento che in effetti è fortemente individuale, che è lo sradicamento da se stessi. E poi, sesto e ultimo punto, libertà non è felicità, ovvero, come dal titolo di un saggio celebre, alla fine di tutto questo la stimmung, direi, cioè la tonalità emotiva che troviamo è quella, come dice Foucault, della morale dell'inconfort, che di solito è tradotto come l'etica dell'inquietudine, cioè la condizione di chi vive questa libertà teorizzata in questa maniera è la condizione dell'inquietudine. Non è l'uomo felice, non è l'uomo, vorrei dire, di Huxley, del mondo nuovo, non è l'uomo che prende il soma e che vive in una società, in una felicità totalmente perenne, continuativa, però secondo questa lettura totalmente assoggettato a un regime di dispositivi. È un uomo opposto. Non sono né complementari né antitetiche felicità e libertà. però quello che si trova in questa condizione di vita non è necessariamente una condizione di felicità, è l'inquietudine, è appunto l'assenza di quiete. L'assenza di quiete nel senso di una quiete fittizia che è quella generata dai dispositivi di potere e di sapere che Foucault non voleva trovare alla fine del proprio percorso. E non mi interessa niente delle letture, scusatemi, delle letture biografiche dei percorsi di vita. In effetti c'è stata un certo tipo di corrispondenza, però non è quella che serve. È forse più utile pensare che quello che c'è qui è qualcosa che più che teorizzato, più che studiato, va vissuto. È proprio una descrizione di condizioni di vita. Con questo avrei finito il riepilogo di quella che dovrebbe essere l'ultima produzione foucaultiana. Alcune cose sono state inserite, altre cose, soprattutto due, lo segnalo, cioè tutto il discorso sulla morale e sulla pastorale cristiana e tutto il discorso sulla sessualità sono state prese in considerazione poco, male o quasi per nulla, forse perché si pensava che fosse questo il punto a cui tendere in queste ore. Chiaramente non è un discorso chiuso perché la prossima volta andremo a vedere quello che è stata la ricezione, quello che ha provocato l'enunciazione di non è un sistema, non è brutto definirlo sistema, la creazione di questi nuovi concetti, di questa nuova filosofia. Quindi grazie a tutti. Grazie. Un calano. Chiudiamo. Se termine. C'è Feder, che mi dice Federica. Che a Pinelli dovrebbe avere Foucault di Deleuze. Sì, adesso vede. Vuoi rispondere? Sì, no, che l'ho visto oggi, una mia allieva me l'ha.